Una volta, in un documentario, ho visto uno sciamano osservare il rubinetto della pompa dell'acqua installata nel suo villaggio ai confini di una riserva naturale. S'avvicinava di fronte alla pompa per girare la leva e vedere l'acqua scorrere. La chiudeva e la riapriva con un gesto meccanico. Sbalordito si risedeva, lì davanti, incredulo. Di nuovo s'alzava da terra e si avvicinava per aprirla e bere. Il suo volto era trasfigurato. Osservava, riosservava, apriva e riapriva di continuo per bere ancora o solamente per guardare. Poi si sedeva a fissare la pompa. Un attimo dopo era con il viso sotto il filo d'acqua per vedere come facesse a funzionare. E funzionava. E lui? La macchina della cameraman guardava impietoso il suo primo piano e si stampava questa domanda. Cosa avrebbe fatto lui ora? Per una vita aveva richiamato a sé tutte le energie migliori per attirare la sua pioggia, le nuvole, benefica per le sue donne, la sua gente, uomini, animali, per la terra. Ma adesso? E la pellicola del reportage, impietosa, filmava questa danza di morte. Con la sete spariva pure lui? Intorno nel villaggio, dietro, nell'inquadratura del suo primo piano, come un cinema pasoliniano, la gente sembrava euforica, i bambini facevano quello che fanno in tutto il mondo, i bambini quando hanno a che fare con l'acqua, saltavano, facevano capriola, avanti e indietro, ma lui fermo, immobile, gli altri dietro in preda ad un trambusto. Un trambusto. Tutto iniziava con un gran trambusto. O perlomeno mi raccontano che iniziò così. La porta di casa scampanellava in un orario sospetto. Mia madre apriva e si intratteneva concitatamente con la vicina. Il motivo non era il bucato o le botte che mi ero dato con suo figlio, anche perché altrimenti ne avrei portato i segni. C'era più complice sorpresa, frasi brevi da linguaggio domestico. Il ferro da stiro, la macchina del gas, l'aglio, la cipolla, il dado, il pane. No, niente di tutto questo. L'acqua. Sarebbe venuta a mancare l'acqua. E intanto lei era uscita, era tornata indietro avendo lasciato aperta la porta, una cosa che non faceva mai. Io ero corso immediatamente fuori, avevo visto fuori dal pianerottolo le porte degli altri appartamenti aperte, mi ero affacciato sul bagliatoio, sulla ringhiera, avevo visto di nuovo altre porte aperte, la gente che parlava concitatamente. Ah, che sta accadendo? Posso uscire, stare sul pianerottolo vicino alle scale senza che mia madre mi riprenda? Sta veramente succedendo qualcosa? La calma arrivò appena la signora Anita, una donna enorme che abitava al piano terra e che sembrava con la sua mole tenere fermo il palazzo o perlomeno stabilizzarlo, si avvicinò e cominciò a prendere fiato. Tutti portavano un gran rispetto per la signora Anita, d'altronde non era il responsabile del condominio di quel strano lotto in cui vivevamo, no, però era una di quelle donne che sapeva di poter contare su tutto. Qualunque cosa lei avesse detto sarebbe stata rispettata. Prese fiato e la voce arrivò forte, forte, salendo sulle ringhiere fino allo scorrimano. Salì in alto a cercare la sua amica del cuore, che era esattamente l'opposto, piccola, secca, nervosa, tenuta insieme da due tendini. E la voce arrivava forte, chiara, limpida. Anita! Anita! Che c'è? Ani, una cosa? Cosa? Ma che t'è andata via l'acqua? Un attimo, mo vado a vede. A Marì, lo sai che nova c'è? No, è andata via l'acqua. E che te sto a dire? Che poi non era andata via l'acqua, stava per andare via l'acqua, altrimenti non era possibile. E la faccia di mia madre, ugualmente, la stessa domanda di tutti. E adesso? Era evidente che la prima cosa da fare era cosa fare. Tutti alla fontanella. Sai che figo, io e mia sorella eravamo stati mandati lì. Non mi dimenticherò mai la gente che formava la fila, la tipica fila italiana, tutte ammucchiate intorno alla fontanella. Ma come erano fatti, mi colpì. Un signore in vestaglia e bimbo piccolo in braccio. Sì, ma la damigiana chi te la porta? Signorotti con canottiera e pantaloni del pigiama. Altri vestiti come la domenica, tutto punto, con la barba fatta, addirittura la cravatta. Per fatte scappare da casa, cosa bisogna fare con te? Bambini pruderosi, scalzi, una sciavatta sì, una sciavatta no, e tutta quell'aria di solidarietà occasionale che riaffiora nelle situazioni di emergenza. Sembra uno che per scendere in strada a fare due chiacchiere, darsi una mano. debba aspettare terremoti, stacchi della corrente elettrica, guerre, paci dichiarate o no, la vittoria dei mondiali di calcio o quant'altro. Intanto in casa ogni attività veniva sospesa all'istante. Procurare l'acqua che di lì a poco avrebbe cessato di scorrere era di primaria importanza. Per prima cosa venivano aperti tutti i rubinetti della vasca da bagno. No, dico, non mi verranno mica a far bagno oggi, non me lo faccio mai oggi che manca l'acqua. No, era ingiustificato questo allarmismo. Si trattava del nostro pozzo casalingo a cielo aperto. Ci avrebbe garantito per tutto il tempo che occorreva la riserva alle necessità più urgenti, ma che riguardavano l'igiene. In breve, era l'acqua per lavarsi. Un tegamino smaltato, rosso e bianco dentro, quello della minestra, quello che quando ce l'hai fatto una volta, se hai fatto un segno non lo lavi più, ci galleggiava sopra e ne avrebbe distinto l'uso. Insomma, voglio dire, comunque non c'è acqua, probabilmente a Dran Via, e ci preoccupiamo di occupare, di prendere quella che ci serve per lavarci. Ma per bere, che mi sta venendo una sete tremenda, che si beve? Subito dopo, infatti, apparivano damigiane, tinozze, dove si sarebbe raccolta quella adibita al bisogno familiare di dissetarsi. Un mestolo di alluminio agganciato sarebbe servito alla bisogna. Intanto tutti venivano destinati ad un compito rapido, preciso. Mio fratello, dal canto suo, inaugurando il periodo New Age, girava con calma olimpica, con il suo bicchiere in mano. Ma insomma, ma te sbrighi o no? Calma, calma, prendi il tuo tempo. E quando anche comunque la Madonnina con l'acqua santa veniva staccata dal muro e colmata con una più laica, il più era fatto. Sembrava di vivere dentro una Venezia dentro casa. Ora l'ansia cessava per lasciar posto ad una minuziosa distribuzione di questo bene fondamentale. Niente più sprechi. A sera, rientrando dal lavoro, il babbo era venuto a verificare il buon esito dell'approvvigionamento, anche piuttosto preoccupato, non senza un malcelato.